as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, oggi puntata dedicata allo sciopero del 20 giugno. Martedì scorso non l'abbiamo fatta perché dovevamo finire i due capitoli della Perla, una vertenza troppo importante, l'abbiamo divisa in due perché sarà molto lunga l'intervista. Questa volta parliamo in maniera obbligatoria dello sciopero del 20 giugno. Siamo a Bologna. Lo sciopero del 20 giugno dei metalmeccanici, 8 ore di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale, per chi vivesse in un altro pianeta e non conoscesse la vertenza dei metalmeccanici, la mia vertenza, visto che sono anch'io un metalmeccanico. Eravamo lì a Bologna, Parco Nord, abbiamo manifestato, voglio subito dire che l'avevamo detto, nessuno ci dà retta, non si riapre la trattativa, è chiaro che dal nostro punto di vista l'obiettivo era bloccare l'Italia. Era stata data una parola d'ordine, bella e buona, è chiara, nel Comitato Centrale, il nostro segretario nazionale De Palma l'ha detto chiaramente e l'aveva detto anche nelle assemblee che lui aveva fatto per il referendum in giro, l'aveva dichiarato. Sinceramente non abbiamo fatto tante assemblee per il 20 giugno perché c'erano state quelle per il referendum in cui si era detto chiaramente quelle assemblee che De Palma aveva fatto e a vari funzionari e dirigenti avevano svolto in tutte le aziende più importanti. Devo dire la verità, non è che ci sarà fatta una serie di assemblee a tappeto in tutte le aziende, ma però è stata manifestata la volontà di questa volta scendere in piazza e far pesare la presenza dei metalmeccanici e far capire che veramente ci siamo rotti. Allora, lo stato della trattativa è uno stato che vede una delle luci, in un certo senso. È stato firmato l'accordo delle cooperative metalmeccaniche. Voglio spiegare a tutti che i contratti nazionali e meccanici in prevalenza sono quattro. C'è Federmeccanica, quello che racchiude la stragrande maggioranza delle aziende metalmeccaniche italiane. Poi c'è quello di Union Meccanica, poi c'è quello delle cooperative, quello delle piccole imprese. Lasciamo perdere tutti gli altri contratti, non ne voglio nemmeno parlare. Comunque sono quattro. E le cooperative metalmeccaniche hanno, prima del nostro sciopero, fatto una trattativa molto intensa in cui sono riusciti a firmare questo accordo, che io personalmente credo che non sia soddisfacente. Siamo pari 200 euro in 4 anni, però diciamo la soddisfazione, e noi abbiamo chiesto 280 in 3 anni, ricordiamo a tutti quanti che abbiamo fatto le stesse richieste un po' dappertutto in tutte le varie categorie, secondo meccanica e anche il resto. Abbiamo uniformato un po' tutte le nostre richieste. Questa trattativa hanno visto qualche miglioramento su alcuni aspetti, sui diritti, su riduzione d'orario. Adesso dovrò guardarmi bene l'accordo, però chiaramente sulla parte salariale in 4 anni 200 euro, tra 280 in 3 anni siamo molto lontani. La cosa importante, secondo la FIOM, è che è stata mantenuta la clausola di salvaguardia. Ricordo a tutti questa clausola, quella che permette, in caso di aumento dell'inflazione, di superare l'IPCA e di andare oltre la quota fissa che è prevista ogni anno. Questa è una cosa che i padroni chiaramente non vogliono e invece sulle cooperative sono riusciti a ottenerle, perché insomma, lo ripetiamo, ne abbiamo parlato diverse volte, i padroni dicono: se voi avete un meccanismo automatico di aumento salariale in base legato all'IPCA, che non è l'inflazione reale, è l'inflazione senza i beni energetici importati dall'estero. Pensate un po' che figata per i padroni. Comunque sì, anche questa cosa qui loro gli dà molto fastidio, perché se avete questo aumento automatico, noi adesso abbiamo preso 27 euro a giugno, anche se il contratto non è stato rinnovato, sempre per la clausola di salvaguardia, noi non possiamo darvi una cifra fissa, insomma, oppure non dovete pensare, se volete la cifra fissa è consistente, dovete togliere questa clausola, insomma, lì è la trattativa. Adesso ci ascoltiamo un pezzo musicale e poi ritorniamo per raccontarvi quello che è successo a Bologna. A Bologna è successo qualcosa di importante, perché, ma non volendo, perché io non sono stato a quelli che proprio hanno organizzato la, anche se fosse stato io non l'avrei mai dichiarato qua in radio, chiaramente, visto quello che sta succedendo, però si è deciso a un certo punto di andare in tangenziale. 10.000 lavoratori metalmeccanici hanno visto che eravamo in tanti, abbiamo pensato che era giusto manifestare, come abbiamo fatto in passato. Chi conosce la nostra storia, noi in 20 anni, io credo che siamo andati 2-3 volte in tangenziale, se non mi sbaglio, almeno 3 volte sicuro, che me le ricordo io, sempre durante i contratti. E abbiamo fatto questa protesta, chiaramente partendo da Parco Nord, era chiaro che o andavamo in via Stalingrado, forse avrebbe fatto più danno per bloccare la strada. In Stalingrado in questo momento, se vai in mezzo alla strada, blocchi tutta Bologna. Comunque siamo andati in tangenziale, abbiamo fatto una specie di passeggiata in tangenziale, diciamo che non era proprio concordata, perché fondamentalmente non è stata concordata, però gli abbiamo detto noi andiamo. Abbiamo mandato un messaggio, sì, voglio dire una cosa molto giusta e corretta. Molti sostengono sui giornali, si è sostenuto che noi abbiamo fatto una forzatura verso il decreto sicurezza, non è così. Fondamentalmente noi sappiamo che esiste il decreto sicurezza, ma noi fondamentalmente abbiamo rivendicato la nostra voglia di protestare e far capire che noi facciamo sul serio. A prescindere dal decreto sicurezza o non decreto sicurezza, il nostro messaggio è non noi combattiamo il decreto sicurezza, su questa cosa qui facciamo le manifestazioni e tutto il resto, ma noi in realtà siamo pronti a far tutto, punto. Non ci fermerà nessuna forma di repressione. Ora, per quanto riguarda questa forma di lotta, io penso che i lavoratori l'hanno molto apprezzata, ma in realtà questo contratto, rispetto ai contratti del passato, non è vero che abbiamo, come qualcuno sostiene, che abbiamo fatto forme di lotta poco importanti. Non è vero, perché abbiamo fatto degli scioperi a singhiozzo, scioperi articolati, che hanno visto molti lavoratori soddisfatti. Quello che in realtà abbiamo riscontrato come problema è che non ovunque si riesce a fare questi scioperi così incisivi. De Palma aveva chiesto di bloccare il paese, ma in realtà, se guardiamo bene, pochi sono stati casi veramente di mobilitazione incisiva. Parliamo di Genova, Ancona e altri 2-3 casi. Quello che manca, così come quando si è fatto lo sciopero articolato, in realtà scioperi a mezz'ora, così poche aziende hanno avuto il coraggio, cioè sono riusciti a farlo, poche RSU sono riusciti a farlo, o pochi territori. Quello che è mancato non è la volontà politica da parte della dirigenza in alto della FIOM, ma purtroppo è mancato proprio la capacità all'interno dei luoghi di lavoro e all'interno di alcuni territori di rispettare le indicazioni che erano state date, o meglio, di rispettarle in maniera, insomma, di fare qualcosa in più addirittura a quello che veniva indicato. Ogni territorio, insomma, ha visto in base alle proprie forze a quello dove poteva arrivare, cosa poteva fare. E questo è stato sicuramente un segno di debolezza. E sicuramente, se tutti quanti avessimo fatto, ad esempio, gli scioperi a mezz'ora, come l'abbiamo fatto in Bonfiglio, dove lavoro io, o i blocchi stradali, cioè noi per esempio siamo andati in strada anche altre volte in questi delle 40 ore, almeno un paio di volte siamo scesi in strada, non abbiamo bloccato la strada, comunque abbiamo dato fastidio, e non solo noi, anche altri posti. Insomma, le forme di lotta ci sono state, le indicazioni sono state chiare, e il problema è che spesso molte RSU, come molti territori, non sono riusciti per capacità organizzative e per forza e per di arrivare fino in fondo e di stare un passo avanti alle indicazioni che venivano date dal nazionale. Le minacce che ci sono state della questura sono minacce dovute, nel senso che ci aspettavamo che la questura in qualche modo dicesse la sua. Questa volta, ecco, qui sì, il decreto sicurezza dal nostro punto di vista è stato decisivo, perché in passato non si è mai visto una questura così decisa a fare le denunce. Anche se in passato bastava che ti comportavi bene, e facevi una manifestazione organizzata con servizio d'ordine senza creare dei problemi eccessivi, e si riusciva a non essere denunciati, anche se ci sono un sacco di denunce fatte alla FIOM. Sembra che è la prima volta che la questura denunci, anche prima del decreto sicurezza abbiamo beccato denunce, ricordiamo Modena, per non parlare di Genova o altri posti, o Roma, Ancona, Trieste, Taranto, là ci hanno sempre denunciato. Spesso la propaganda anti-FIOM racconta di un sindacato moderato che sta sempre in combutta con il patronato e con le forze dell'ordine, ma questo non è vero. Forse noi siamo quelli dopo i Sicobas, sicuramente, che abbiamo più denunce all'attivo. pensare che a Genova hanno più di 23 denunce per manifestazioni non autorizzate. Questo è prima del decreto sicurezza, per farvi un esempio. Certo che per conquistare il contratto io credo che bisogna agire lottando duramente in fabbrica. Le manifestazioni sono importanti, certamente dopo la manifestazione di Bologna, di Genova, di Ancona, delle altre, di Bergamo e di altre città in cui veramente si è lottato. Ma abbiamo visto il governo che ha convocato le parti e si è visto che Unionmeccanica a un certo punto ha chiesto di riaprire la trattativa. Questo fa ben sperare, dunque è servito, ma io credo che la lotta più importante va fatta in fabbrica. Va fatta in fabbrica, va fatta con scioperi articolati, bisogna far male al padrone. Bisogna fargli del male il più possibile. Io credo che questo vada fatto. Poi noi abbiamo una necessità in questo momento di fare due cose importanti. La prima è quella là di unire i lavoratori. Avere due scioperi separati, il 20 c'erano anche altri scioperi, avere chi non partecipa agli scioperi, sia perché fa i cromini oppure perché appartiene a un altro sindacato, questo è veramente triste, anche perché noi gli aumenti salariali poi saranno per tutti. Questo è un problema enorme che abbiamo in Italia, la divisione sindacale, dobbiamo cercare almeno di unire i lavoratori, in alcuni casi siamo riusciti, in alcuni casi meno, però io non voglio dire che è colpa degli altri, la FIOM è perfetta, assolutamente no, ci sono anche responsabilità da parte di FIOM, soprattutto della CGIL, se questo è accaduto, però bisogna che noi come lavoratori abbiamo bisogno di unità di classe. È fondamentale per poter respingere gli attacchi che verranno fatti dai padroni. Poi in questo momento io penso che la questione della guerra, la questione del 5% sia fondamentale, vada affrontata come insieme a tutti. Io mi auguro manifestazioni, scioperi generali di tutti i sindacati, tutti i lavoratori, anche gli iscritti, si scende in piazza contro questo governo che ci ha massacrato e ci massacrerà in futuro in maniera esagerata. Potremo vedere tranquillamente conquiste salariali importanti svanire nel disastro governativo che ci attende, visto anche tutti i miliardi che saremo costretti a dover dare a Trump e all'industria delle armi. The car, stay arm, Babylon if you go stay farm. So knee cock, then tree pan. Slaughter the church at all. Assassination, marksman, party five in a female. Innocent bloodshed upon their shoulders. As the day goes, their heart grows colder. And documenting what them do up in the folders. Judgment they are far more than the afterlord. Flashing my lot, here come the rats. Fireway gash, hit them a catch. No man has happened till Babylon gash. Them head full of gas, and then pass in the marks. Snap on my fingers, them gone in a flash. Anything but it, peeing at the trash. Dust to dust and ash to wash. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon, for your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon, for your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. So me, bomb them already make them think I won't try again. Guess who? I again. Daniel out of the lion den. Comfy bonna fire pan vampire and the liar them. From who I send the order straight down to the fire stem. So much trouble in the world, it's hard for people to smile again. And who can I and I depend? It's hard to even find a friend. So much I the mind and there is no one to hire them. So much I do let them get to you to fire them. Flashing my lot, here come the rats. Fire away gash, hit them a catch. No me not stopping this Babylon cash. Them head full of gas, I then pass with the max. Snap on my fingers, them gone in a flash. Anything but it peeing at the trash. Dust to dust and ash to ash. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Set Babylon till your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon till your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. Ooh. You see that fire where we blazing. You see that fire where we blazing. You see the fire where we blazing. As we a step forward, we a step on Babylon. Brother, we're moving forward. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon till your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon till your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. Set this place on fire. Abbiamo ascoltato questo pezzo meraviglioso. Oggi parlo io, sì, oggi parlo io. Io la vorrei chiudere questa intervista che faccio a me stesso, questa, sì, mi sono auto-intervistato, e dicendo semplicemente che lo contatto ai metalmeccanici, io spero che abbia la rilevanza che merita anche da parte della Confederazione CGL. Abbiamo spiegato nella prima parte dov'è il fulcro del problema. Clausola di salvaguardia. Una micro scala mobile, semi scala mobile, che voglio ricordare a tutti quanti che l'ultimo contratto noi avevamo 112 euro di aumento fisso, siamo arrivati a prenderne 300 grazie alla clausola di salvaguardia, visto quello che è successo, la guerra, i disastri, la guerra nello Yemen e tutto il resto. Questa clausola è fondamentale e io sostengo che tutti i lavoratori italiani debbano avere almeno questa clausola, una specie di scala mobile per legge, che tocca a tutti. Nel momento in cui l'inflazione aumenta deve aumentare anche i salari, oltre al salario minimo serve anche questo, che è una cosa fondamentale che va combattuto a livello sia contrattuale ma anche governativo, perché non basta. E la CGL deve finalmente accettare, che sono anni che noi nei congressi chiediamo una scala mobile, che può essere contrattuale, può essere per legge. Oggi non c'è un governo, non ci vuole nemmeno dare il salario minimo, figuriamoci una scala mobile, ma dobbiamo farlo per contratto. I metalmeccanici hanno aperto una strada che non è una vera e propria recupero dell'inflazione reale totale, ma in parte c'è un recupero di una buona parte dell'inflazione, che non è tutta, ma io credo che sia un punto decisivo. È importante riconquistare questo, ma è importante anche riconquistare una quota salariale fissa, degna. La mia paura è 200 euro in 4 anni, anche se la otteniamo, molti lavoratori che hanno lottato, sono 40 ore di sciopero, diranno ma che caspita, sono 200 euro in 4 anni, insomma, non saranno contenti. Io penso che bisogna lottare per portare a casa tutti i soldi, che erano anche pochi, 280. Ricordiamo che avremmo dovuto chiedere 3,50 per il potere di acquisto perso in quegli ultimi 4 anni, e abbiamo chiesto 2,80 in 3 anni. Se arriviamo a 200 euro in 4 anni come le cooperative, veramente sarà deludente per i lavoratori. Speriamo di no. La cosa importante, ripeto, è riconquistare la clausola, cioè tenere la clausola di salvaguardia. che diventi un modello per tutte le contrattazioni, perché altrimenti le perderemo nel prossimo. Cioè, se noi non la estendiamo a livello confederale, se non convinciamo anche Cisla Will a fare le altre categorie, questo, non riusciremo a tenercela. Non l'abbiamo tenuta questa volta, la perderemo la prossima. Questo è fondamentale, come fondamentale anche la battaglia, come ho detto prima, per l'unità di classe, per combattere oggi il mostro della guerra, il mostro di chi è per le armi, e dobbiamo assolutamente fermare questo governo e i governi europei. Serve una mobilitazione non solo in Italia ma europea, almeno è fondamentale, perché dobbiamo liberarci in Europa. Non possiamo pensare di risolvere i problemi a Gaza, in Ucraina, in Russia, in Congo, in Sudan, in Yemen, in Iran, se non ci liberiamo qua in Europa. È inutile tutto. Il problema è qui in Europa e anche negli Stati Uniti d'America, ma noi dobbiamo, almeno qui in Europa, dobbiamo fare il nostro, liberare l'Europa per liberare il mondo dalla guerra. Questo dovrebbe essere il nostro motto, e tutti i lavoratori europei, ma dobbiamo essere uniti. Vi saluto e sentiamo la prossima puntata. All'interesse di evitare che i lavoratori e le lavoratrici possano rivendicare i propri diritti.